Beh, ci siamo molto preoccupati questa mattina quando abbiamo preso la notizia dell'oscuramento di alcune radio per il cancellamento dell'energia elettrica dagli impianti di Montecavo. È evidente che la giustificazione dell'Enel, e cioè che proprio oggi vi sarebbero stati lavori di manutenzione ordinaria, non è proprio giustificabile, incomprensibile, in parte ridicola. Tutti sanno ormai da mesi che questa mattina, che oggi era una giornata assolutamente particolare per l'intero paese, la visita del presidente statunitense Bush, gli incontri con Berlusconi, con Ciampi e naturalmente le proteste di larghe fette della società italiana. Ecco, io penso che da questo punto di vista si potesse scegliere ben altri momenti per interrompere l'energia elettrica a radio che esprimevano un pluralismo dell'informazione anche alternativo rispetto a quello delle fonti ufficiali. È importante che comunque l'energia si ripresa prima delle 12 e che a questo momento nel pomeriggio di venerdì le trasmissioni siano potute riprendere, però fatti del genere non devono più accadere, ne va di mezzo la libertà di informazione, il diritto alla libera espressione che sono principi costituzionali. Sono con le radio ai quali esprimo solidarietà e naturalmente comprensione e ovviamente un auguro di buon lavoro. Quello che è successo oggi non deve accadere mai più.